24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Lavoro, riforma in dirittura d'arrivo, ma i sindacati si dividono. La CGIL verso lo sciopero generale napolitano, non sia soltanto per l'articolo 18. Francia ha circondato l'assassino della scuola ebraica di Tolosa. Secondo Sarkozy stava per colpire di nuovo. Dopo le alluvioni, Bruxelles mette in mora l'Italia. Non ha ancora identificato le aree a rischio. La commissaria europea tira le orecchie a Montalbano. Mangia troppi pesciolini giovani e così rovina l'ecosistema. Benvenuti da Paolo Panceri a questa nuova edizione di 24 ore in Europa. In apertura la discussione sulla riforma del lavoro in Italia con le parole della segretaria CGIL Susanna Camusso. La proposta di 16 ore di sciopero, di cui 8 per un'astensione generale con manifestazioni territoriali e 8 per le assemblee. Sentiamo Susanna Camusso. Confermiamo un giudizio che abbiamo dato varie volte, che continuiamo a dare, che la riforma del mercato del lavoro di per sé non determina la creazione di neanche un posto di lavoro. Nuove regole sono necessarie, ma non si può contrabbandare questo come un provvedimento legato alla crescita. Giudizio sospeso per la UIL, ha detto il segretario Luigi Angeletti, chiarendo che sui licenziamenti economici occorre introdurre un sistema di verifiche da parte delle rappresentanze sindacali sul fatto che le motivazioni siano oggettive e non strumentali. Soddisfatta invece la CISL per gli interventi sulle partite IVA. Aspetto di vedere il quadro complessivo della riforma e il commento del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che ha invitato il Governo a decidere la riforma legislativa per poi dare la parola al Parlamento. E il dibattito politico è in corso, la posizione più delicata resta quella del PD. Giallo nel centro-sinistra, soddisfazione nel centro-destra, l'articolo 18 spacca la maggioranza, il PD è sempre più critico nei confronti del Governo, il segretario Pierluigi Bersani attacca, i patti non erano questi, mentre Rosy Bindi avverte. Considerare la riforma nel suo insieme e proprio per questo riteniamo debba avere in Parlamento profonde modifiche. Il Governo e il Presidente del Consiglio possono andare avanti se rispetteranno la dignità di tutte le forze politiche che lo sostengono. E anche Antonio Di Pietro dell'Italia dei Valori promette sull'articolo 18 siamo pronti ad un Vietnam parlamentare. Anche la Lega è contraria ai licenziamenti senza giusta causa. Umberto Bossi tuona, contrasteremo il Governo, qualsiasi cosa faccia la consideriamo sbagliata. Da parte del centrodestra invece piena approvazione per la riforma, così Angelino Alfano del PDL. Sull'articolo 18 penso sia stato raggiunto un buon punto di equilibrio e di compromesso, non è esattamente quel che volevamo noi, però da questo bisogna che non si arretri. Per Pier Ferdinando Casini UDC la riforma si può migliorare in Parlamento ma non si può annacquare. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. La riforma italiana incassa anche il plauso del commissario europeo agli affari sociali, Laszlo Andor. Passiamo alle borse, contrastate. Milano scende dopo il mancato accordo sulla riforma del lavoro. FTSE MIB a meno 1,29%, Parigi a meno 0,1%, Francoforte a più 0,23%, Londra a più 0,01%. Finale contrastato per le borse europee, con Milano che ha accusato la performance peggiore penalizzata dalla notizia del mancato accordo tra il governo e le parti sociali sulla riforma del lavoro. Notizia che ha riportato lo spread sopra i 300 punti e il rendimento dei titoli di Stato a 10 anni sulla soglia del 5%. Il FTSE MIB sul finale ha chiuso in calo dell'1,22%, mentre Parigi ha lasciato sul parterre un frazionale 0,10% e Francoforte è salita dello 0,23%. Piazza Affari ha subito l'andamento debole delle banche e di alcune blue chips, in primis Generali in meno 4,6% e Mediaset meno 4%, bocciate entrambe per la diffusione dei conti del 2011 e l'annuncio della sforbiciata al dividendo. Si sono però impennate le Banco Popolare più 3,2%, premiate proprio per i numeri dell'anno passato. Sono state gettonate anche le Buzzi più 1,8% tra volumi in crescita, mentre hanno perso l'1,49% le Parmalat, risentendo della sentenza del Consiglio di Stato che ha ordinato la restituzione delle azioni della Centrale del Latte di Roma al Comune della Capitale. Terna è salita dell'1% all'indomani della pubblicazione dei conti e del piano industriale che prevede investimenti per 6 miliardi entro il 2016. Eleonora Micheli da Radio Corp per Radio 24 e Il Sole 24 Ore. Ora la cronaca, andiamo a Tolosa in Francia, dove la polizia sta cercando di indurre alla resa Mohamed Merah, il presunto autore della strage della scuola ebraica. L'ordine è di prenderlo vivo. Le negoziazioni vanno avanti dalle 3 di ieri notte. Secondo informazioni rese note dal presidente francese Nicolas Sarkozy, l'attentatore, un franco-algerino di 24 anni con presunti legami con Al-Qaeda e precedenti penali, aveva in programma di uccidere ancora. Non ho rimpianti, ha infatti detto Merah ai poliziotti, anzi avrei voluto fare più vittime. La cronaca italiana: nonostante le tragiche alluvioni che hanno colpito la Liguria, la Toscana e le frequenti esondazioni, le autorità italiane non hanno ancora recepito le norme europee per la prevenzione delle inondazioni. Per questo la Commissione europea avvierà oggi una procedura di infrazione contro l'Italia. Sarà una lettera di messa in mora, primo passo della procedura, a causa del ritardo nell'identificare le aree a rischio. Nuovi fondi in arrivo dall'Unione Europea per i palestinesi. L'alto rappresentante per la politica estera europea, Catherine Ashton, e il premier dell'ANP, Salam Fayyad, hanno firmato due accordi del valore totale di 35 milioni di euro. E secondo la Commissione Europea, le banche europee non proteggono abbastanza i consumatori, che continuano ad avere difficoltà a cambiare banca e costi del conto extra nascosti in condizioni lunghe centinaia di pagine. Per questo Bruxelles, basandosi anche sul rapporto di Mario Draghi sul mercato unico, lancia una consultazione pubblica al primo passo di una normativa ad hoc sulle banche che arriverà a fine anno. È fissato alle 7.34, ora italiana di domani, il lancio dal poligono francese di Kourou del terzo Automatic Transport Vehicle, navetta automatizzata per il rifornimento della ISS, costruita dall'Agenzia Spaziale Europea e battezzata Edoardo Amaldi in onore del fisico italiano. Massimo Cislaghi, Program Manager dell'Agenzia Spaziale Europea, al microfono di Gigi Donelli. La TV, quindi Automatic Transport Vehicle in inglese, veicolo di trasporto automatico, è uno dei capisaldi del supporto logistico della Stazione Spaziale Internazionale. È il più grande veicolo e il più pesante e il più complesso veicolo mai sviluppato e operato dall'Agenzia Spaziale Europea. Ed è un veicolo che alla sua terza missione continua ad assicurare un supporto logistico essenziale alla Stazione Spaziale Internazionale, trasportandovi materiale, cargo pressurizzato, pezzi di ricambio, esperimenti, cibo e oggetti personali per gli astronauti, ma anche acqua, aria, ossigeno. Grosso modo un terzo della massa di lancio è costituita da carico utile. E ne potrebbe fare a meno? Assolutamente no. Soprattutto in un periodo, quello attuale, nel quale lo shuttle americano ha purtroppo terminato la sua vita operativa, la TV europeo insieme all'HTV giapponese e al solido, classico, indistruttibile Progress russo sono i tre veicoli che assicurano appunto il supporto logistico della stazione. Ma dei tre veicoli, la TV è quello con maggiore capacità di trasporto. Dal momento del lancio, quanto impiega a raggiungere la stazione, che orbita intorno al nostro pianeta a circa 400 km di distanza? Nel caso specifico della TV 3, l'inseguimento dura circa 6 giorni. ATV non si limita a rifornire, ma risolleva la Stazione Spaziale Internazionale. Certamente, in effetti questa TV trasporta 6.600 kg circa di carico utile, all'incirca la metà è rappresentata da propellente che viene utilizzato per effettuare una spinta della stazione spaziale, quindi accelerarne la velocità, e per una semplice legge fisica, quando si aumenta la velocità di un corpo rotante intorno alla Terra, la sua orbita si innalza. Perché deve innalzarsi? Perché a 400 km di distanza dalla crosta terrestre c'è ancora un piccolo residuo di atmosfera che ne rallenta la velocità e quindi ne provoca un abbassamento di alcuni metri al giorno dell'orbita, che però deve essere altrettanto gradualmente compensato al fine di non scendere ad altitudini troppo basse e quindi pericolose per la sopravvivenza della stazione stessa. Il commissario Montalbano dovrebbe smettere immediatamente di mangiare novellame, ovvero i piccoli pesci, contribuendo così a rovinare l'ecosistema del Mediterraneo. A chiederlo non è un dietologo, ma il commissario europeo per la pesca, Maria Damanaki. Aspetto la lettera, poi commenterò, ha ribattuto Andrea Camilleri, creatore del commissario Montalbano. Certo, ha aggiunto lo scrittore, forse un po' di maggiore serietà non sarebbe stata male. A Montalbano piacciono triglie di scoglio che non sono vietate e qualche volta mangia il bianchetto. E chiudiamo con il calcio. La Commissione europea ha dato il via libera alle regole varate dalla UEFA per evitare il doping finanziario delle società di calcio, riconoscendo che le norme sono in linea con quelle dell'Unione europea sugli aiuti di Stato. Lo hanno reso noto in una dichiarazione congiunta il presidente della UEFA, Michel Platini, e il vicepresidente dell'esecutivo europeo e responsabile per la concorrenza, Joaquín Almunia. Ed è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Ancora una buona giornata da Paolo Panceri. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.